Stare male, stare peggio di quello che appare, stare peggio del peggio del peggio. Un sorriso sul tuo splendido viso non basta, perché ormai è finita la festa. Ora ti spiego qual è l'ingiustizia. Povera, povera me, vivo tra cucina e tinello, sarebbe bello stare solo, solo con te, e invece lui c'è. Povera, povera me, vivo tra cucina e chinello, sarebbe bello stare solo, solo con te, e invece lui c'è. Spesso non basta, non dovevo fidarmi di questa. Adesso guarda che destino, ho un problema. Quest'alloggio non è molto grande, non vorrai mica aggiungere un ospite. Da soli stiamo così bene. Sorseggiare del tè, dall'aroma intenso e dal gusto speziato. Quanta allegria, ma quanta felicità, tra l'allero, tra la.